Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Bryan Adams, Jeff Beck, Bono Vox, Ray Charles, Eric Clapton, Joe Cocker, Elvis Costello, Miles Davis, Peter Gabriel, Macy Gray, Tom Jones, B.B. King, Mark Knopfler, Brian Wilson, Sting, Sinéad O'Connor, Iggy Pop, Paul Young, Yu Sundur. L'elenco è lungo e potrebbe continuare, ma se vi state chiedendo cosa abbiano in comune questi nomi, a parte il fatto di appartenere ad artisti che sono monumenti della musica mondiale, la risposta è una. Tutti hanno collaborato, alcuni anche regolarmente, con il nostro cappellaio matto. Parliamo di Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero. Zucchero. Più del successo, il fatto di essere stato accettato ed essere accettato dal Gotham musicale, sto parlando internazionale, vale a dire da artisti che sono riconosciuti in modo planetario, più che essere la star, essere stato accettato e sapere, non so, un Bono mi manda un messaggio dove mi dice: sono orgoglioso di aver fatto delle cose associate insieme a te, per dire, no? I'm very proud to be associated someone like you, capito? Oppure Peter Gabriel che mi dice: ho sentito il tuo ultimo album, great voice, great singing, great band, great sound. Più di 50 milioni di album venduti in tutto il mondo nel corso di una carriera trentennale. Tour che richiamano decine di migliaia di persone ad ogni concerto, sold out in live evento come quello dell'Arena di Verona. Primo artista occidentale a cantare al Cremlino di Mosca dopo la caduta del muro. Non c'è nessun risultato che Zucchero non abbia ancora raggiunto. Eppure continua a scrivere e a suonare con lo stesso entusiasmo degli inizi, perché per lui la cosa che conta di più è sempre la stessa. Sto molto attento a non farmela diventare, come dire, troppo noiosa, perché sennò se non mi diverto io non riesco, il pubblico lo avverte, e se non godo io non gode neanche il pubblico. Sembra incredibile che questo eterno ragazzone con la passione per i cappelli curiosi, da qui il soprannome di Cappellaio Matto, abbia fatto tutta questa strada partendo da un paesino di provincia. Invece lui, testardo e controcorrente, la provincia non l'ha lasciata neanche adesso che è una grande star. Buona Forchetta, bevitore appassionato e amante della natura, gira il mondo ma torna sempre a casa, nella sua fattoria. Ma è sempre la solita vecchia storia. Quando sei a casa ti abitui ai ritmi di casa, che sono in campagna, insomma, molto dilatati. Quando sei in tournée tutto deve essere molto preciso, perché alla tal ora devi andare sul palco e 80 persone devono muoversi in sinergia svizzera. Diviso tra l'internazionalità e l'attaccamento alle origini, Fornaciari, che ha sempre tenuto il soprannome Zucchero che gli aveva dato la sua maestra elementare, è forse la perfetta sintesi del concetto di glocal. La sua ricchezza sta proprio nell'equilibrio tra il ricordo delle tradizioni e la scoperta di ciò che è più lontano culturalmente ed emotivamente, come a dire un po' bassa padana e un po' blues. Quando ricordo quei suoni lì, quando ricordo quei visi, quelle immagini, sto meglio, tutto diventa un po' più tollerante, diventa più caldo e tenero. Ho visto cieli pieni di miseria, sai, e ho visto fedi false fare solo guai, che sai di noi. Che sai di me, al suono della domenica dov'è? Ho pensato al suono della domenica. Il suono della domenica era un suono, quando ero piccolo, rarefatto, molto aperto, cristallino, sentivo le campane, i bambini che giocavano. L'Emilia Romagna è una terra ricca di talenti e sono molti quelli che non se ne sono mai andati neanche con il successo. Non se n'è andato il modenese Guccini, Vasco resta a Zocca e Ligabue rivendica con i suoi libri, i suoi film e le sue canzoni la bellezza dei luoghi intorno a Correggio. E poi, solo limitandosi all'ambito musicale, sono originari dell'Emilia Lucio Dalla, Gianni Morandi, il più giovane Cesare Cremonini. In provincia, tra una partita a carte nei bar dove ancora sono gli anziani a farla da padrone e le biciclette che tremano sui ciottoli delle vie pedonali, la dimensione umana favorisce la creatività. Ancora oggi e forse una volta di più, perché come ricorda Caterina Caselli, la musica è sempre stata parte integrante della vita, sia nella quotidianità che nella festa. Modena è un centro, da un punto di vista musicale, non so, forse favorito anche, o forse grazie anche alle balere, che quindi la possibilità di potersi esibire senza essere necessariamente delle star. Il paese natale di Zucchero si chiama Roncocesi ed è una frazione di Reggio Emilia, dal cui centro dista appena 7 chilometri. Deve essere davvero un luogo dell'anima se anche Luigi Ghirri, che ha fotografato l'Italia per lavoro e per amore, l'ha scelto come sua ultima residenza. Nel 1955, quando il piccolo Adelmo viene alla luce, la maggior parte delle persone coltiva la terra e anche la famiglia Fornaciari è contadina. Nel tempo libero sono due i riferimenti agli antipodi come nei racconti di Guareschi: l'oratorio e il circolo del PC. Peppone era un meccanico fenomenale e mai un motore affidato alle sue cure si era rifiutato di comportarsi da galantuomo. Ma quella volta, pur avendo perso tre notti a smontarlo e rimontarlo, Peppone non riuscì a convincere il compagno trattore russo a camminare. È quello il moribondo? No, quello sta meglio di noi. E allora chi è che sta morendo qui? Nessuno. Peccato. Ma allora chi è quell'imbecille che mi ha telefonato? Io. Te? Sì, perché se questo cancro non parte... Sei te il meccanico, io faccio il curato. Appunto, se fate il curato, beneditelo. Benedire quest'arnese? Sì, sì, io? Sì, sì, ah, sì. Perché? Perché deve avere nella pancia tutte le maledizioni del creato. Non benedirei un trattore sovietico nemmeno se fosse in agonia. Zucchero frequenta entrambi, sia la chiesa che la sede del partito. In chiesa suona l'organo fin da bambino, al partito ce lo portano i grandi e lui non si perde una parola di quei dibattiti infiniti durante i quali i compagni evocano il mito sovietico e Che Guevara, dividendosi democraticamente i compiti come da dottrina. Uno apre il lambrusco e l'altro taglia il salame. Gli piace anche giocare al calcio. Può rimanere ore con il pallone attaccato ai piedi, per staccarsene soltanto quando sua madre, dopo svariati richiami, minaccia punizioni se non torna a casa. Però è bravo, davvero bravo. Tanto che un giorno, mentre è in campo con i suoi piccoli coetanei, viene notato da un talent scout della Reggiana che siede sugli spalti. L'uomo, finita la partita, va negli spogliatoi a chiedere informazioni su quel Fornaciari che già tutti chiamano Zucchero. Dopo aver parlato con l'allenatore, incontra i genitori e in poche settimane Adelmo è tesserato come portiere nella squadra dei Pulcini della Reggiana. Intanto scopre la musica. Dove la melodia pura è quella che deve entrare nel cuore della gente, senza troppi vestiti o troppe orpelli intorno. È questo che ho fatto. A far conoscere la chitarra Zucchero è uno studente americano di colore che è iscritto alla facoltà di veterinaria di Bologna, la stessa a cui anche lui si iscriverà più tardi. Il ragazzo gli insegna i primi rudimenti, facendolo appassionare a uno strumento che nel tempo diventerà quasi un appendice del suo corpo. Ma soprattutto gli apre un mondo fatto di novità che arrivano dall'Inghilterra e dall'America. Bob Dylan, Beatles, i Rolling Stones. Siamo nel pieno degli anni 60. Da una parte c'è la Via Emilia e dall'altra la Route 66. E come ricorda Guccini, tutto quello che parla inglese ha il sapore del futuro. Allora l'America era il mondo, l'America era la meta, era un qualche cosa che tutti sognavamo, perché il cinema era americano, la musica era americana, i libri, la letteratura era americana, insomma. Noi disprezzavamo tutto quello che poteva essere locale, italiano. I suoni che piacciono a Zucchero sono quelli che vengono dal delta del Mississippi, quei canti struggenti degli schiavi delle piantagioni che esprimono tutta la loro malinconia nelle note blues. La musica gli è entrata nel sangue ed è difficile per lui, ragazzino emiliano dalle guance rose e paffute, spiegare agli altri cosa prova quando sente una voce cupa accompagnata dall'armonica. Io invece praticamente ho fatto un genere italiano, sono un cantante italiano, canto in italiano, ma musicalmente attingo da una musica che è nera. Dai che non siamo dei santi, le tentazioni del suolo, ho sperimentato molte strade, dal blues, al rhythm and blues, al soul, al gospel, poi ho mescolato anche il gospel con l'opera. Nel 1968, mentre il mondo sta vivendo in parallelo molte rivoluzioni, la famiglia Fornaciari mette in atto nel piccolo la sua. Per lavoro bisogna lasciare Reggio e trasferirsi in Versilia, Forte dei Marmi, provincia di Lucca. Zucchero cambia amici e abitudini, frequenta una scuola nuova. Ma dopo appena 3 anni è già il momento di spostarsi ancora alla Volta di Avenza, un quartiere di Carrara. È qui che Adelmo fa le superiori, scegliendo, come molti dei suoi coetanei, l'Istituto Tecnico Industriale Galileo Galilei, indirizzo perito elettronico. Il liceo è per chi ha già deciso che farà l'università. Zucchero invece deve ancora capire quale sarà il suo destino. Per divertirsi, più che perché ci crede davvero, mette in piedi Le Nuove Luci, un gruppo di ragazzi con cui comincia a esibirsi nelle balere della zona. Risate, chiacchiere senza fine quando si torna dalle serate, le ragazze, attratte dalla figura del musicista, che si incontrano di volta in volta. Per Fornaciari sono anni bellissimi, durante i quali impara quali sono le cose importanti per chi sogna di fare il musicista. Intanto devi avere una band con cui ti trovi bene, che ci sia una buona energia, questo fa tanto. Poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di fare ancora questo mestiere, di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, che magari non canti da tanto tempo. L'adrenalina poi fa anche alla sua valenza, e poi l'idea di lo stimolo di andare in posti anche che non ho mai fatto prima, come l'Australia, come la Sudafrica, come insomma isole che non avrei mai pensato di poter suonare, come le Mauritius, le Reunion Island, Armenia, insomma posti anche belli, esotici, diversi dal solito giro che avevo fatto prima. I luoghi esotici per Le Nuove Luci sono al massimo Sarzana, Massa o qualche comune in provincia di Bologna. E Zucchero, agli inizi della sua carriera, non può neanche lontanamente immaginare dove lo porterà la sua musica. Una cosa è certa, andare in scena gli piace già da morire, ma nonostante questo decide di iscriversi a veterinaria. Attaccato alla sua terra e amante sincero della natura e degli animali, oggi come allora, dà 39 esami su 51, per poi mollare non così distante dalla laurea. Io dico sempre, perché essere così semplici quando con un minimo sforzo si può diventare impossibile? Zucchero passa con disinvoltura da un gruppo all'altro, il Duca, il trio Amici del Mare, i Decals. Quando lo chiamano a suonare, lui va senza puzza sotto al naso, nelle occasioni più varie, dai matrimoni ai compleanni. Guadagna qualcosa, quanto basta per convincerlo che di musica si può campare. E mentre aspetta che le cifre diventino un po' più sostanziose, si mantiene facendo molti lavori, tra cui tornitore, fornaio e salumiere. È stato più difficile perché all'inizio il pubblico si chiedeva, ma cioè, un italiano che canta soul, blues o rhythm and blues è un po' strano, no? È come dire, non so, una spaghetteria che fa hot dog. Non è facile né per gli addetti ai lavori né per il pubblico abituarsi ai ritmi blues di Zucchero, che in 10 anni di gavetta riceve più che altro no e porte in faccia. Suona chitarra e sax e dopo aver formato i Sugar and Candies inizia anche a scrivere canzoni. Il suo unico grande amore è il blues, ma per gli altri compone seguendo strade più italiane e convenzionali. A spingerlo in questa direzione è il mito delle atmosfere romantiche Fred Bongusto, per il quale scrive Tutto di te. Per Michele Pecora, invece, giovane interprete del genere neomelodico, Zucchero scrive Te ne vai, che diventa un grandissimo successo estivo e lo proietta nel mondo degli autori commerciali. Scrivevo le prime canzoni con la chitarra e la voce, senza le tecnologie, no, che ci sono adesso, i vari sequencer, Pro Tools, o drum machine. Gianni Ravera, affascinato dal suo timbro di voce così caldo, roco, originale, spinge Fornaciari a partecipare al Festival di Castrocaro come interprete. I risultati gli danno ragione perché Zucchero vince, ottiene un contratto con la Polygram e l'anno successivo partecipa al Festival di Sanremo. Non è ancora tempo per il successo. Mentre come autore ha le sue prime soddisfazioni, come cantante si deve accontentare di esiti mediocri. Frustrato dal fallimento e deluso dal contesto artistico italiano, Zucchero nel 1984 vola in California, destinazione San Francisco, dove un suo amico lo aspetta per farlo suonare nel suo locale. È in questo periodo che il suo stile acquisisce l'impronta internazionale che riconosciamo ancora oggi. Insieme alla Randy Jackson Band, realizza l'album da cui è tratto il singolo Donne, che concorre a Sanremo 85. La canzone, attaccata dalla critica e ignorata dalla giuria, si piazza negli ultimi posti. Ma come succede spesso, è un successo di pubblico. Zucchero adesso ha la credibilità che sta cercando per sfondare davvero, e il suo segreto, da uomo ben piantato con le radici al terreno, è lavorare sodo, sempre. No, io penso che devi fare del mestiere, devi fare della bottega. Sei un musicista, sono un musicista, credo preparato, mi metto lì alle 11 di mattina dopo aver fatto colazione, vado lì, ascolto, faccio, guardo, prendo appunti nel mio studio, mi arrovello, mi girano i coglioni, vado fuori. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo all'inizio degli anni Ottanta e un giovane Adelmo Fornaciari, per tutti e da sempre Zucchero, si sta affacciando al successo dal palco di Sanremo. Veterinario mancato, ha scelto di lasciare l'università per dedicarsi soltanto alla musica, ma non è facile, visto il suo amore per i ritmi blues e soul, sfondare nel mercato italiano così legato alla tradizione. Suona chitarra e sax, canta, compone canzoni per sé e per gli altri, ma all'inizio il suo talento stenta a prendere il volo, perché è diverso e difficile da capire. Originario della provincia di Reggio Emilia e profondamente attaccato alle sue radici, è stato cresciuto nella concretezza di una famiglia contadina e non si dimentica mai quanto è importante, nonostante le porte in faccia, continuare a lavorare sodo. È capitato che magari alle 4 sei lì, sei insonne, ti viene in voglia e dici: ah! Per esempio, Diavolo in me è venuta così, in cucina lì, perché non riuscivo a dormire, non so, senza una donna è venuta anche quella in 10 minuti, perché sentivo già l'odore di separazione, in anticipo. Overdose d'amore è venuta così mentre tornavo a casa dal mare, lì in bicicletta. Ma a parte alcuni esempi, alcuni pezzi che sono nati proprio in 10 minuti, gli altri c'è del lavoro, cioè sì, si aspetti l'ispirazione. Donne del 1985 è il primo singolo che conquista il pubblico. L'anno dopo Zucchero pubblica l'album Rispetto, in pieno stile rhythm and blues, che contiene la canzone Come il sole all'improvviso, scritta con Gino Paoli. Ed è sempre con Gino Paoli che scrive il testo di Con le mani, inclusa nel disco Blues, insieme a pietre epocali come Senza una donna, Pippo e Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica. Dopo 10 anni di gavetta con tanta fatica e poche soddisfazioni, la carriera di Zucchero decolla senza intoppi, con effetti esponenziali. Vince il Festival Bar, fa 3 concerti con il suo idolo Joe Cocker, duetta con Miles Davis e Ray Charles. E il 1988, nello stesso anno, il Cappellaio Matto suona alla Fiera Internazionale del Disco di Cannes e sfonda nel mercato estero. Il suo primo tour europeo lo porta in Francia, Germania, Olanda, Svizzera, Spagna, Danimarca e Belgio. La consacrazione definitiva avviene qualche mese dopo, con l'uscita di Oro, Incenso e Birra, che racchiude Overdose d'amore, Madre dolcissima e uno dei suoi capolavori, Diamante, su parole di De Gregori, dedicata a sua nonna. Sì, beh, insomma, non posso non fare un concerto, dove non c'è Diamante, dove c'è, non c'è Diavolo in me, Senza una donna, Dune mosse, ecco, ci sono delle canzoni che non posso non fare, perlomeno insomma, immagino che il pubblico rimarrebbe un po' deluso se non la sentisse. I miei occhi si chiariranno e fioriranno i nevai. Impareremo a cantare. Nel 92 Zucchero è in un grande momento per quanto riguarda la carriera, ma si ritrova solo in seguito alla separazione dalla moglie. Chiuso in una casa sul mare, lavora al nuovo album e compone Miserere. No, la storia è che io ero sempre lì, negli anni della depressione, nel 92, stavo su quella casa sul mare con mio cane. E l'unica cosa che mi faceva stare un po' meglio era sentire, non so per quale motivo, le romanze di Puccini, tre o quattro, mica di più. E poi mi faceva stare un po' meglio Bukowski, perché stava peggio di me. Mi è venuta fuori questa Miserere, che era tra gospel e lirica, sì, con qualche riferimento pucciniano, dai, chiamiamola così. Quando va dai produttori prova imbarazzo nel proporre anche questo brano così diverso da tutti gli altri e lo tiene per ultimo. Loro, che conoscono bene Zucchero e sanno che ha sempre qualcosa che tiene nel cassetto, lo convincono a fargliela sentire. Ma tu sei matto quando ho sentito. È come avere una Ferrari nel garage, tenerla nel garage, poi sono arrivati l'internazionale. Vabbè, dico, allora l'unica cosa che può giustificare che la faccio se c'è Pavarotti. Il tenore per eccellenza. Zucchero vuole Pavarotti. Una sfida impossibile. Il tenore è un personaggio irraggiungibile, di fama mondiale, e soprattutto non ha mai cantato con dei rocker. Ma Fornaciari non è uno che molla, né al primo colpo né al secondo. E dopo il primo no secco messo in tasca a Filadelfia dai produttori che sono volati fino in America per incontrare il maestro, si fa venire un'idea. Indice un'audizione per registrare il brano che poi andrà a portare lui stesso di persona a Pavarotti. Neanche a dirlo, l'elenco dei candidati è lunghissimo. Qualcuno non è minimamente all'altezza di un'esecuzione così complessa. Altri si avvicinano un po' di più a ciò che vuole Zucchero, ma nessuno è perfetto. Finché tocca un giovane che comincia a intonare le prime note e incanta tutti i presenti, con una voce così meravigliosa che commuove. Ha poco più di 30 anni, viene dalla provincia di Pisa e i suoi occhi sono coperti da lenti scure perché è cieco. Si chiama Andrea Bocelli. Andrea Bocelli. Che ogni passo che faccio ha un ritmo, che ogni momento della mia giornata è accompagnato da qualche motivo che mi aiuta oppure che mi tartassa anche a volte, perché mi martella quando hai un motivo in testa che non riesci a cacciare. Comunque c'è sempre una questione musicale in fondo a ogni gesto, ogni... Andrea Bocelli, come Zucchero, arriva dalla provincia. Precisamente dall'Aiatico, un comune di poco più di 1000 anime non lontano da Pisa. Viene alla luce il 22 settembre del 1958 e cresce nella fattoria di famiglia nel cuore della campagna toscana. Per colpa di un glaucoma congenito, la sua vista è debole fin dalla nascita, ma è a 12 anni che diventa completamente cieco, quando giocando a calcio nel ruolo di portiere prende una pallonata sull'occhio con cui ancora vede. Già da bambino Bocelli suona il pianoforte. Ha mani delicate che scorrono agilmente sui tasti e non gli mancano talento e concentrazione. Più per curiosità che per ambizione, si mette anche a suonare flauto e sassofono. E man mano che passano gli anni, si rende conto di quanto la musica sia fondamentale per lui. Ancora non ha scoperto la potenza della sua voce, anche se comincia a esercitarla in varie chiese della Valdera, durante le messe, i funerali e i matrimoni. Un grande cantante non è quello che non ha difetti, ma è quello che ha grandi pregi, no? Da ragazzo Andrea canta un po' per gioco. I parenti se lo contendono per le feste e così gli amici. Lui, divertito, improvvisa estemporanee esecuzioni che scatenano gli applausi di tutti i presenti. Attento a non saltare mai una lezione di solfeggio, il futuro tenore si iscrive al liceo e poi all'Università di Pisa, dove si laurea in giurisprudenza. Sembra incredibile che riesca a fare tutto così bene, ma è anche questo equilibrio uno dei doni che l'ha portato al successo. Ma le ragioni del successo, lo dico spesso, sono sempre misteriose e rimarranno ignote, perché se non fosse così, allora un successo potrebbe essere analizzato e ripetuto. Invece, quando anche questo avviene, poi fallisce miseramente ogni tentativo. La lirica appassiona Bocelli sia come ascolto che come esecuzione. Fin da quando è piccolo rimane letteralmente ipnotizzato quando sente brani d'opera e ha la fortuna di studiare con il tenore Franco Corelli, una figura importantissima nel panorama musicale del Novecento. Il maestro è severo, rigido, non si accontenta mai dei risultati che il suo allievo raggiunge. Però è grazie a questo atteggiamento se Andrea, già umile di natura, apprende il valore della crescita costante, sia sul piano umano che su quello professionale. Cioè, prendersela con chi ti critica non giova mai innanzitutto a te stesso, perché è inutile cullarsi negli allori. Bisogna cercare di migliorare per dare un senso alla nostra carriera. Mestierante che si rimbocca le maniche e senza atteggiamento da divo neanche oggi che è acclamato dalle più prestigiose platee di tutto il mondo, Andrea Bocelli, pur di mantenersi cantando, non rifiuta nessun ingaggio e per un periodo passa le sue serate a esibirsi nei piano bar. È chiaro a tutti che la sua voce ha qualcosa di magico, fa venire i brividi a chi ascolta fin dalle prime note, eppure le offerte importanti non arrivano e la carriera del giovane pisano stenta a decollare. Siamo nel 1992. Bocelli ha già più di 30 anni, non è certo vecchio, ma nemmeno più giovanissimo, e comincia a pensare che il suo destino non lo porterà molto più lontano di dove è ora, a cantare sui piccoli palchi dei locali di provincia. Ma Zucchero, che vuole far sentire un pezzo nuovo che ha scritto, Miserere, al tenore Luciano Pavarotti, indice un'audizione per inciderlo. Bocelli si candida, sente che è la sua ultima occasione, ma non può immaginare quello che sta per succedere. No, ma volevo dire che comunque sia, il successo mio è proprio atipico in quanto è senza regole. Fuori dalle regole, fuori dagli schemi, ho portato un tipo di vocalità, uno stile che era improponibile a qualunque compagnia discografica. Ci voleva solo una mossa di coraggio, insomma. Ma le cose fatte così o non funzionano, se funzionano, funzionano bene. No? Destini incrociati. A Destini incrociati siamo nel 1992 e Zucchero ha appena scritto il brano Miserere. Per convincere il grande tenore Luciano Pavarotti a cantarlo, ha bisogno di portargli una registrazione molto convincente, perché per ora il maestro è stato molto fermo nel suo no. E così incide un'audizione. Neanche a dirlo, quelli che si candidano per incidere il pezzo sono decine. Fra questi c'è un ragazzo di Laiatico, in provincia di Pisa. Si chiama Andrea Bocelli e si mantiene facendo piano bar. Ma non appena accenna le prime note, è chiaro a tutti che la sua voce è un dono straordinario. Molto spesso i critici mi prendono come bersaglio, no? E io capita abbastanza spesso che sono anche d'accordo con loro. Forse se la facessi io la critica su di me sarei anche più severo. Perfezionista e autocritico fino allo sfinimento, Bocelli incanta Zucchero, che gli fa incidere subito Miserere e porta il nastro a Pavarotti. Il maestro, appena sente la registrazione, resta estasiato. Il risultato è che Pavarotti incide Miserere, ma a seguire Zucchero in tutta la lunga tournée europea è Bocelli. La lungimirante Caterina Caselli, che per i talenti ha un fiuto da mastino, si accaparra immediatamente la giovane promessa mettendola sotto contratto con la sua Sugar. Come a dire, nel destino di Bocelli c'è scritto ancora una volta Zucchero. Una persona a cui devo molto, a cui il mio destino è molto legato. Io ho cominciato con una sua canzone. Sto parlando di Zucchero Fornaciari. Andrea Bocelli supera le eliminatorie di Sanremo cantando Miserere e poi stravince nella categoria Nuove Proposte. L'anno dopo, tra i big, con Il mare calmo della sera, scritta da Zucchero, si aggiudica un punteggio record. Il primo album, che contiene l'omonimo singolo, in poche settimane è disco di platino. I media gridano al fenomeno. Sì, ma sono sempre stati un po' i giornalisti che mi hanno attribuito questo aspetto, se vogliamo, un po' pionieristico di riportare la canzone, cioè le opere in mezzo, le aree d'opera in mezzo alla gente. In realtà sì. Tutti i grandi tenori, come dicevi prima te, sono diventati popolari grazie alle canzoni, insomma. La sua popolarità è in ascesa inarrestabile. Con te partirò lo lancia in un tour mondiale che gli porta premi e primi posti nella classifica di molti paesi. Quando nel 96 esce il disco Romanza, dopo poche settimane è già disco di platino ovunque e la stampa internazionale comincia a paragonare Bocelli a Enrico Caruso. Per lui la gioia è infinita, perché considera un onore essere un rappresentante dell'Italia nel mondo. Fin da ragazzo soffrivo un po' del fatto che le classifiche, specialmente italiane, fossero dominate, occupate da prodotti in lingua straniera, soprattutto inglese, no? Questa reazione improvvisa degli italiani, che poi non solo io, sono riusciti a andare di là dall'oceano con dei prodotti in lingua italiana, secondo me è molto importante, perché la nostra comunque rimane una delle culture più antiche e più profonde, no? Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò con te. Mentre il timido Bocelli non si ferma un secondo, mietendo un successo dopo l'altro fino alla consacrazione definitiva con Aria, Spirito Divino fa conquistare a Zucchero il disco di diamante, perché vende qualcosa come 3 milioni di copie. Il Cappellaio Matto, invitato da Dan Aykroyd, si esibisce alla House of Blues in una serata di gala per il compleanno di John Belushi. Le sue collaborazioni con gli artisti italiani e internazionali si fanno sempre più frequenti, ma anche se comincia ad abituarsi a vedere il suo nome associato a Bono, Eric Clapton e le più grandi star che sono ansiose di duettare con lui, una proposta riesce a sconvolgerlo ancora una volta. 15 anni dopo la morte di Freddie Mercury si riuniscono i Queen e Brian May, il geniale chitarrista, chiede a Zucchero di essere la nuova voce della storica band. Lui, lusingato, declina l'offerta perché dice gli sembra un po' troppo. Quando Brian May mi chiamò, io ero separato da poco, quindi abitavo in una casetta sul mare di legno che mi avevano prestato ed ero solo con il mio cane, piuttosto depresso. Mi arriva questa telefonata alle 3 del pomeriggio dicendo Ario Zucchero, dico sì, chi è? Sono Brian May. Chissà che scherzo vuol fare questo. Invece si è rivelato uno dei miei più grandi fan, fino dai tempi di Senza una donna, poi era uscito Oro, Incenso e Birra, che lui considera ancora uno dei dischi migliori della sua discografia. Zucchero e Andrea Bocelli sono uomini dalla personalità molto diversa, ma uniti da una storia simile. Entrambi nati in provincia e amanti della natura, continuano ancora oggi tra un tour e l'altro a vivere nelle loro fattorie nella campagna toscana. Tutti e due hanno scelto una strada musicale diversa da quella dominante e hanno dovuto per questo affrontare una gavetta più lunga e difficile degli altri. Ma oggi, dall'Europa all'America, il mondo è ai loro piedi. Ci vuole qualche cosa di più. Vuole un po' di pushing, pushing, quando il sole va giù. Ci vedi qualche cosa di positivo in uno. Ci vuole un po' di catch and funk, quando il sole no, no.